Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Vai Milan, combatti così, altro che zanzara. Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Uno, uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, 9-8 minuti cari ascoltatori, una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan con voi, con l'Alpino in regia, con Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli in redazione, anche se Lorenzo Nespoli si occupa ormai di sport, è stato dirottato ma adesso tra poco lo recuperiamo, si occupa un po' di tutto, il nostro Leonardo Manera che ho visto qua fuori, c'è il sole anche oggi a Milano. Stamattina albeggiava con dei colori fantastici tra le nuvole dorate e rose e per cui ho detto oggi arriverà, quindi attendiamolo alle 9:30. Insieme a voi potete scriverci 349-238-6666, abbiamo anche la mail ovviamente, è 100milan@radio24.it e 800240024, ormai lo sapete a memoria, me lo sogno anche di notte, è il numero per chiamarci in onda. Sentiamo cosa è successo oggi, dai, andiamo Milan, andiamo, dai. I will not be easy and it will not be easy. Tante cose. Intanto io voglio da oggi, con colpevole ritardo peraltro, iniziare un conteggio tutti i giorni. Ricorderò, e sono oggi 28 giorni che abbiamo 18 pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia, Bengasi, ce ne siamo occupati, e gradirei sapere, visto che ci sono oltre a loro le loro famiglie in angoscia, a sapere che destino avranno, sono stati presi e detenuti perché avrebbero sconfinato nelle acque libiche, forse per pescare dei gamberi di Mazara. Da 28 giorni sono a Bengasi e domani, se non verranno liberati oggi, dirò che sono 29 giorni e gradirei sapere, domani dobbiamo tornare a occuparci in qualche modo, che cosa stiamo facendo. Io lo so che in questi casi la Farnesina lavora sicuramente sotto traccia, magari in silenzio, non è che se non escono sui giornali le notizie vuol dire che non stanno facendo nulla, sono certo che stiamo facendo come italiani di tutto per liberarli, però vorrei, non so, capire come mai non c'è una grande campagna di stampa. Dove sono i sovranisti? Sono dei cittadini italiani che sono tenuti lì a Bengasi, non si sa bene neanche in quale condizioni, potendo chiamare ogni tanto sporadiche telefonate. Ce li ridate, amici della Libia? Ce li ridate per favore? Questi 18 pescatori, li ridate alle loro famiglie da 28 giorni tenuti lì? Grazie, sareste così gentili? Grazie. Allora signori, ieri come sapete ci siamo occupati del caso di Carbone in Basilicata e molti hanno detto vabbè, ma la vicenda di Carbone, perché la vicenda di Carbone, comune di neanche 600 anime, dove si sono candidate due liste di perfetti sconosciuti ai carbonesi, così ho scoperto che si chiamano i cittadini di Carbone. Ieri avevamo un ex consigliere comunale. Due liste di perfetti sconosciuti, è stato eletto un sindaco perfettamente sconosciuto, il quale, lui con tutti i suoi consiglieri, si è subito dimesso appena eletto. Sono arrivate anche le telecamere di Striscia la Notizia ieri, notavo. Carissimi amici, stiamo a Carbone in Basilicata, siamo venuti a consegnare la fascia da sindaco al nuovo sindaco Scavello. Andiamo! C'è un problema, non lo riusciamo a trovare. Perché oggi Repubblica torna su questa vicenda che noi ieri abbiamo raccontato in tutti i dettagli con Giuliano Foschini su Repubblica, il caso, l'ultimo di Carbone. Noi ieri abbiamo avuto ospite il fondatore di una delle due liste, l'altra Italia, quella perdente. Io gli ho chiesto ripetutamente di giurare, spergiurare, scusi, nella vostra lista ci sono per caso dei dipendenti pubblici, magari appartenenti alle forze dell'ordine, che in base a una legge vecchia possono ottenere un'aspettativa in caso di candidatura? Lui mi ha detto no, no. No, assolutamente, nella nostra lista, l'altra Italia, nessuno è dipendente pubblico. Solo che invece nella lista che ha vinto, racconta oggi Repubblica, e ieri non avevamo rappresentanti della lista che ha vinto, quella del sindaco Vincenzo Scavello, ci sono Domenico Tancredi, Domenico Ciraci, Michele Del Pozzo, Matteo Fiumara, Maurizio Lorubbio, Fabio Antonio Martorana, Mauro Morciano, Vincenzo Foresta, Giuseppe Ponente, Giuseppe Salerno, che secondo il prefetto di Potenza sono tutti agenti della Polizia di Stato in servizio alla squadra mobile di Reggio Calabria. Ma io dico, ma... cioè, e tra l'altro scrive Repubblica che già 2 anni fa si erano presentati, questa volta con un altro candidato sindaco in un altro comune, non lo so, a Parolise, provincia di Avellino. Nel 2018 invece a Arpaise, nel Beneventano, e nel 2017 sono candidati a Teana Potenza. Così si candidano per avere l'aspettativa. Va bene, ragazzi, questo è il caso di Carbone, il caso di Carbone, ma è il caso è l'Italia, bellezza, e voi non ci potete fare niente, niente, niente. Ah, ragazzi, io ho convocato un collega stimatissimo, giornalista, scrittore, l'ho convocato su altre questioni, ma so che si saprà occupare anche di questa. Sergio Rizzo, buongiorno, vice direttore di Repubblica. Ciao, buongiorno. Sergio. Ieri mi sono occupato di questa vicenda di Carbone, eh? Carbone, virgola Italia. Sarebbe un bel titolo, Carbone, virgola Italia. Sì, sì, sì. Sì. Va bene. Allora, Sergio, io t'ho chiamato perché intanto c'è un tuo libro che è un po' premonitore, perché racconta di cose anche legate all'INPS, visto che è stato scritto con Tito Boeri, si intitola Riprendiamoci lo Stato, come l'Italia può ripartire, per Feltrinelli. Però io ti chiederò del caso Tridico dell'INPS. Prima ti faccio questa domanda. Tu con Gian Antonio Stella tanti anni fa hai scritto La Casta. Da lì è nato un filone, lo sappiamo, di letteratura, di trasmissioni che hanno un po' intercettato anche lo sdegno popolare. E no? Purtroppo non solo. E non solo. Non solo. Ma ti chiedo, adesso gli italiani, rispetto a quando 20 anni fa hanno letto La Casta, come reagiscono a questi, come dire, ennesime vicende di soldi, presunti sprechi? È cambiato, guarda, qualcosa? Purtroppo con la solita indifferenza, questa è la cosa che... o anzi, cioè, si indignano 5 minuti e poi, passati 5 minuti, si sono già dimenticati tutto e... ma cosa dovrebbero fare? Cosa dovrebbero fare i cittadini? Ma sai, gli italiani, voglio dire, sono anche in qualche modo... Hanno di fronte a sé uno specchio, che è quello della politica, della classe dirigente, quindi in qualche modo sono un po' vittime di questa cosa, no? Quindi questo non per assolverli, attenzione, perché poi ci sono, secondo me, questioni che affondano nella storia di questo paese e che determinano poi certi comportamenti. Però al netto di queste cose, il problema è vero, è la classe dirigente, perché se la classe dirigente non riesce a mettere mano seriamente a queste cose che indignano le persone, beh, poi alla fine, voglio dire, fanno le liste bloccate e tu non puoi scegliere i tuoi rappresentanti. Sì. E voglio dire, cioè, fanno i concorsi truccati e tu non puoi nemmeno sperare che i tuoi figli possano avere un futuro decente confrontandosi sul merito con altri concorrenti. Ed è tutto così. È tutto così. Poi dopo parlano di attacco alla democrazia se uno vota sì al referendum, no? Nel senso che io ho votato sì, ma ha detto ma la democrazia mi sembra attaccata più dalle cose che racconti tu. Anche in quel caso, io con tu hai ricordato quel libro, in quel libro noi scrivemmo che i deputati e i senatori erano troppi, no? Che sì. I parlamentari erano troppi, e continuo a essere dello stesso parere. Sono troppi perché ci sono due camere che fanno la stessa cosa, e non esiste che ci siano quasi 1000 persone che fanno le leggi, no? Dovrebbero essere molti di meno, ma la cosa si poteva affrontare e risolvere in modo molto più razionale, cioè abolendo una camera, no? Certamente. Ecco, questo non l'hanno voluto fare, perché poi alla fine il gioco è sempre lo stesso. Allora io adesso mi aspetto con terrore la legge elettorale, e già so che ne verrà fuori una cosa drammatica, perché qui si tornerà al proporzionale, che è quello che ha distrutto l'Italia nei primi, diciamo, 50 anni della sua Repubblica. Sì. Quindi, voglio dire, il gioco purtroppo è sempre lo stesso, e non capiscono, non imparano, non c'è niente da fare. No, ma guarda, come ci scrive Diego, un ascoltatore, è come la questione di carbone, esatto, ti indigni e poi ti rassegni, nel senso che cosa puoi fare. Però, allora, la questione INPS, tu oggi ne scrivi su Repubblica, ne hai scritto nel libro, eccetera. Sì, sì. Allora, e hai chiarito che ormai, secondo me, è accertato, questo va detto, non è una questione di scandalo lo stipendio di 150.000 euro al presidente dell'INPS. Secondo me è uno stipendio equo, giusto per il ruolo che ricopre. Ma è basso. Anche basso per il ruolo che ha. Il vero scandalo, tu racconti, è che c'è una legge, e la legge sul reddito di cittadinanza, che prevede che qualsiasi stipendio dei consiglieri di amministrazione, tra cui il presidente dell'INPS, non deve gravare per lo Stato, quindi hanno dovuto rosicchiare delle spese interne all'INPS per garantire questo stipendio. E tu racconti dove hanno rosicchiato, presumibilmente. Sì, allora, intanto qui è veramente siamo nel campo dell'ipocrisia, no? Perché tu dici, facciamo un consiglio di amministrazione di un ente che amministra 300 miliardi, però non li paghiamo, no? Anzi, li paghiamo soltanto se loro riescono a trovare i soldi nelle pieghe del bilancio, che è una cosa sinceramente abbastanza singolare, no? Già di per sé. Dopodiché vai a vedere dove hanno preso i soldi, e noi non sappiamo in realtà dove li hanno presi. Sì, i dettagli no. Perché sappiamo che ci sono due capitoli: uno la manutenzione dei beni immobili, eccetera, eccetera, e l'altro è quello delle spese postali. Ora, io non so quali spese postali sono state tagliate. Non lo sappiamo, perché non è chiaro. C'è un sospetto, però. Però, diciamo, io so che cosa hanno tagliato, perché è una cosa che dovrebbero sapere anche, diciamo, i cittadini, che non si sono visti più recapitare le famose buste arancioni, no? Che erano quelle dove doveva esserci l'importo della tua presunta pensione nel momento in cui tu avessi lasciato il lavoro. Sì, ieri Roberto Perotti dice che è una cosa fondamentale, perché soprattutto quelli che sono vicini all'età della pensione devono, insomma, anche fare dei calcoli sul proprio tenore di vita futuro. No? Attenzione, perché quella non è stata una iniziativa così campata per aria di un presidente, che nella fattispecie era Tito Boeri, nel caso. Sì. Il mio coautore del libro che tu hai citato prima. Ma è una disposizione prevista dalla famosa legge riforma Dini. Cioè, nel 96, quando la riforma Dini ha trasformato le pensioni dal metodo retributivo al metodo contributivo, era previsto anche che ci fosse un'informazione da parte dell'INPS ai futuri pensionati. Questo perché? Perché ovviamente, siccome il contributivo poteva anche dare luogo a dei tagli rispetto a quello che tu prevedevi fosse la tua pensione futura, tu dovevi anche come dire, essere messo nelle condizioni magari di programmare la tua vita, ma anche la tua previdenza, per esempio decidendo di investire nei fondi pensione. No, comunque, chiariamola agli ascoltatori, quindi come ci ha detto Sergio Rizzo, non è che c'è scritto abbiamo recuperato 261.000 euro dalle buste arancioni per aumentare lo stipendio del presidente dell'INPS, però sono stati recuperati 261.000 euro da spese postali, telegrafiche e telefoniche degli uffici. Però devo dire, non è colpa neanche di Tridico, ma della legge che impone di risparmiare all'interno per pagare il presidente. No, ma allora, però, diciamo, se tu devi retribuire, allora, già il meccanismo, abbiamo detto, è assurdo, no? Però diciamo, accettando l'assurdità di questo, di quel meccanismo, se io devo recuperare dei soldi per retribuire gli organi apicali, insomma, cerco di trovarli risparmiando da altri organi apicali, no? Tu dici dai dirigenti, per esempio, dai per esempio da lì. 20.000 ora, uno in meno, che... 20.000 uno in meno all'altro, 20.000, 20.000 si recupera. Diciamo, i dirigenti dell'INPS sono retribuiti molto, ma molto meglio che non il presidente, che già di per sé è una cosa abbastanza insomma singolare, perché il presidente dell'INPS non ha semplicemente un compito di rappresentanza, attenzione, come nelle società, eccetera, ma ha dei compiti di gestione, sì. Cioè, quindi è, come dire, responsabile degli atti della dell'ente. Allora ti chiedo questo, perché tu il titolo che avete fatto con Tito Boeri, che è stato a capo dell'INPS prima di Tridico, è "Riprendiamoci lo Stato, come l'Italia può ripartire". Allora lo chiedo a te, come può davvero ripartire? In tre mosse, se non in 300, ma almeno in tre. No, ma sai, allora, noi siamo abituati che tutti i politici ogni volta ci presentano, no, questo pacchetto, sempre queste promesse di riforme roboanti. Cioè, in realtà è un paese questo nel quale bisognerebbe cominciare a lavorare di fino, no? Quindi a fare delle modifiche al nostro sistema, ma magari molto più inavvertibili di altre. Cioè, ma qui si potrebbero cambiare molte cose, per esempio la scelta dei dirigenti della pubblica amministrazione è fondamentale, no? Oggi i dirigenti come vengono scelti? Talvolta vengono presi anche con dei meccanismi che sono meccanismi assurdi, no? Distacchi, comandi, cioè io racconto il caso del Quirinale, che tra l'altro raccontammo già all'epoca della cassa, dove si scoprì che in 37 anni non avevano fatto neanche un concorso, però c'erano 1.065 dipendenti. Quindi, diciamo, questo è un'operazione fondamentale da fare, cioè bonificare il modo di selezionare i dirigenti delle amministrazioni. Ce l'abbiamo detto mille volte, i ministri passano, i funzionari passano, i governanti pro tempore passano, ma la vera casta, se mi permetti. Ma ci sono dei dirigenti nella pubblica amministrazione che sono nello stesso posto da 12 anni, dirigenti, diciamo, che hanno dei ruoli importantissimi. Basta guardare al Ministero dell'Economia, vai a dare un'occhiata al Ministero dell'Economia, cosa c'è. Sì. Ci sono dirigenti che occupano lo stesso posto da 12 anni e mi domando, ma come si fa a lasciare una persona in un posto di potere per 12 anni? Sì, diciamo che il potere che poi si consolida, esatto. Si consolida il potere. Quindi ci sono degli interventi da fare, ma veramente molto... molto così indolori, se vogliamo, no? Ecco, un ascoltatore però dice, ma non hai detto come li si scelgono questi dirigenti? Come si scelgono questi dirigenti? Allora, intanto prevalentemente si fanno concorsi interni, perché quello che non si sa è che nella pubblica amministrazione funziona molto il meccanismo della promozione interna, no? Quindi tu devi scegliere un dirigente, fai dei concorsi interni e quindi hai della gente che magari già non era adatta a svolgere dei ruoli, diciamo, di responsabilità inferiore, che viene promossa grazie alla compartecipazione del sindacato, perché poi c'è anche questo aspetto importante nella pubblica amministrazione, e diventano dirigenti generali, no? Questo è il meccanismo. Sì. Dall'esterno entra pochissima gente. I concorsi dall'esterno sono molto, molto pochi, molto pochi. Per i livelli dirigenziali. E spesso quando si fanno questi concorsi, poi, diciamo, si trova anche il modo di aggirare le normative che vengono, e i paletti che vengono allora, messi per... Si riescono a girare, sono abiti a volte cuciti su misura. Però voglio farti una domanda politica, caro Sergio Rizzo. Io ieri ho definito il Presidente del Consiglio su questa vicenda come la vecchia figura di Ercolino sempre in piedi, non so se te lo ricordi. Cioè, reddito di cittadinanza, cambiamolo. E così non va bene, però è stato fatto con lui Premier. Tridico non ne sapevo nulla, e anche voi avete avete scritto che, insomma, per carità, magari qualche funzionario, appunto, qualche dirigente ha firmato e non ha avvisato il Presidente del Consiglio, che però per legge ha informato la Presidenza del Consiglio, non il Presidente, la Presidenza è informata sulla vicenda degli monumenti. Ti faccio sentire questa questione, perché anche questa l'abbiamo sentita varie volte. Conte ha rilanciato la lotteria degli scontrini. Sentite, italiani, cosa arriverà da gennaio. Ogni anno da gennaio arriva sta cosa. Anche un singolo caffè, e quindi tanti acquisti continuativi, i primi 100.000 sms avranno 1.500 euro a testa. In più ci sono 50 milioni all'anno per una lotteria con estazioni periodiche. Io non, cioè, per carità, oh, la vorrò vedere, io la vorrò vedere, ma è un po'... Conservate gli scontrini. Conservate gli scontrini. L'italiano, che per carità, non ironizziamo, si fa in diversi paesi del mondo, è una misura dibattuta, ma fatela, cioè fatela e poi vediamo come va, non lo so. Ma, sì, ma appunto, perché poi la cosa... E ogni anno la sento, paese, in finanziaria sì. Ogni anno la mettono, ogni anno. Beh, se uno dovesse cominciare a fare l'elenco dei governi che hanno promesso la lotta all'evasione fiscale, penso che arriveremmo fino ai primi degasperi, tutti, no? Tutti. Così come io ricordo che il primo ministero contro la burocrazia è stato creato nel 50, credo che fosse il quarto governo De Gasperi, e si chiamava Ministero per la Riforma Burocratica. Riforma, il problema sì. È che il ministro era un ex burocrate. Cioè, voglio dire, il gioco è sempre questo, no? Cioè, è un gioco dell'oca per cui si torna sempre al via. No? Sì, questo sì. È il sistema nostro. Sì, sì. Così come le promesse dei politici non vanno mai a compimento, perché se no il politico successivo non potrebbe fare la stessa cosa. Ma Conte poteva non sapere, secondo te? Conte poteva non sapere di questa vicenda Tridico? Ma certo che poteva non sapere, perché queste sono cose che vengono decise dalle burocrazie, sì. Capi di gabinetto, grandi consiglieri dei ministri, che si mettono intorno a un tavolo a ragionare su quanto deve guadagnare il Presidente lì, perché già di per sé è ridicola questa cosa, perché, voglio dire, c'è anche una questione di buonsenso, no? Sì. Ma come si fa a pensare che il Presidente di un ente che amministra 300 miliardi possa guadagnare, come nel caso di Tridico, nei primi mesi 62 mila euro? Sì, sì. È una cosa che non ha senso. È squilibrato, ecco, per il ruolo. Ma no, che non ha proprio senso, perché squilibrato. Perché adesso, per carità, chi amministra un ufficio pubblico, secondo me parte della sua retribuzione è anche l'onore di servire il pubblico, no? Quindi necessariamente la retribuzione deve essere inferiore a quella di un ente privato, no? Però così è molto riveste una carica simile, non può essere costretto a questa cifra. No, ma non Sergio, io mi devo fermare e ti ringrazio molto. Voglio segnalare ancora, se volete, in libreria Riprendiamoci lo Stato, come l'Italia può ripartire. Sergio Rizzo l'ha scritto con Tito Boeri per Feltrinelli, dunque Tito Boeri ex presidente dell'INPS. E che dire, insomma, abbiamo dato tanti elementi su cui dibattere. Io ringrazio Sergio Rizzo, vice direttore di Repubblica, e ci fermiamo per il momento alla pubblicità. Tra poco ci raggiunge, a parte Manera, che non lo vedo, non so, è arrivato Elisabetta Fusconi, sta gira, boh, non lo so. Ci raggiunge Luca Mercalli per parlare invece di una notizia, cioè ho preso spunto la notizia da New York, di un orologio che mi ha molto colpito. E parleremo un po' di sostenibilità, di futuro con lui. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, io l'altro giorno dissi: cominciamo dall'anno zero, iniziamo, licenziamo i responsabili del discorso di Suarez. Adesso licenziamo subito questi agenti. Cominciamo a fare pulizia. Ti faccio vedere che prima o poi le cose si sistemano. Uè Milan, volevo dirti una cosa. Vai a lavorare, Barlafus. Like a fairy tale. fare pulizia, vai. Manera, ma oggi hai tolto il vestaglione e hai sgambato fino alla radio o sei ancora lì col vestaglione perché non vuoi uscire e non hai voglia di fare niente? Io ho detto, boh, sarà qui. Sarà qui. Leonardo, dove sei? Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Dove sei? Sono impossibilitato. Non posso recarmi fino in Viale Monterosa 91, non posso. Cominciamo a fare pulizia. Licenziare chi non lavora, per esempio. Io oggi sarei venuto volentieri, sì. Purtroppo non posso perché ho delle necessità, ho delle commissioni da svolgere subito dopo alle 11 e non avrei potuto svolgerle se fossi venuto lì perché sono dall'altra parte della città, quindi devo rimanere qui. E se tu non vai alla redazione potremmo spostare la redazione e il nuovo smart working proprio personalizzato. Questa non è una cattiva idea, ecco, invito anzi a farlo, a trasferire tutta la radio nei pressi di Piazza Udine, va bene, sarebbe più comodo per me, potrei anche essere lì presente tutte le mattine, ecco. Quindi fate presente questa mia necessità a chi? All'amministratore delegato? Verrà... C'è un amministratore? Sì, certo, c'è un amministratore delegato, direttore personale, sì, c'è un amministratore delegato, al sole 24 ore. Chi è l'amministratore delegato? Adesso, sai, io non lo so. Ma lascia stare, tu lascia ma stare. Ma posso fare un appello al signor amministratore delegato? Chi è? Come si chiama? Di mettere, lascia stare. Ma tu avrà un nome, si può nominare o è come il mega già, direttore galattico che sta con le poltrone danni, di pelle umana? Dei danni con le Nasarco. Tra l'altro so che il mio amico Nicola Lombardo, capo comunicazione del Napoli e di De Laurentiis, ti ha mandato tutte le istruzioni per votare Nasarco. Mi ha detto così su Twitter privatamente, c'è tutto un sito, ho scritto a Leonardo Manera come votare. Dove mi sai che non l'ho ricevuto? Su, non ho ricevuto tuo profilo nulla. Twitter privato. Ma io Twitter non lo uso mai, non so capito, nemmeno se è ancora attivo. Ti ha mandato le istruzioni, quindi puoi votare se vuoi. Comunque mi stupisce che tu non voglia nemmeno pronunciare il nome dell'amministratore delegato di Radio 24. Andiamo, succede avanti. L'inferno? Cosa succede? No, sì, il nome, si può dire solo il nome. Cosa frega? Ma cosa interessa? Si può dire il nome del cosa Presidente interessa? Della Repubblica Italiana, signor Sergio Mattarella, e non si può dire il nome dell'amministratore delegato di Radio 24 per convincerlo a spostare tutta la radio qui vicino a Piazza Udine. È già fatta. Piazza Udine. Come si chiama? Adesso vado a controllare. Su internet, amministratore delegato Radio 24. Ci sarà una persona. Devi vedere del gruppo 24 ore. Non vado a cercare, intanto che tu cerchi. Fammi presentare Luca Mercalli. Buongiorno Luca Mercalli, eccoci qua. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Climatologo, divulgatore scientifico, non c'è bisogno di tante presentazioni. Io ho scoperto che lei ha questa vita doppia, nel senso positivo ovviamente, nel senso che è davvero... Si è paragonato agli armenti, questi gruppi di buoi. Sì, proprio alle vacche, mi sono paragonato alla transumanza. Che d'estate, perché lei d'estate o a giugno si trasferisce in un rustico in montagna, in alta valle di Susa. E ha scritto un libro per dire che questo sarà un po' il nostro futuro. Perché, secondo lei? Allora, ho scritto un libro che si intitola proprio Salire in montagna. Esce oggi per Einaudi, perché racconto qui la mia migrazione verticale dovuta proprio al riscaldamento globale. Voi direte, ma in questi giorni fa un freddo becco. È vero, fa freddo in questa fine di settembre, bisogna ricordare che però abbiamo appena chiuso uno dei mesi di settembre più caldi della storia. Due giorni non compensano i 25 giorni precedenti nei quali abbiamo avuto praticamente un'estate autunnale, o meglio un autunno estivo, perché le temperature sono sempre più alte e nelle nostre città non è che si stia tanto bene con il caldo, soprattutto poi quando raggiungiamo le temperature dell'ordine dei 40-42 gradi delle ultime estati, che sono destinate a salire in futuro. Quindi io mi sono portato avanti col lavoro, ho detto, visto che lavoro con questi dati e li uso, sarebbe da fessi non sfruttarli a mio vantaggio. Ho detto, prima che lo facciano tutti, meglio che vada a trovarmi qualche rudere da riattare, e così ho fatto, ho preso una vecchia baita per trasferirmi al fresco, mentre a Torino, dove normalmente sto, si boccheggerà, o si boccheggia già adesso. Certo. Non devo così almeno usare il condizionatore d'estate, almeno per qualche anno, in attesa che poi anche lì, ho già attrezzato la casa col condizionatore, Perché infatti, in previsione dei prossimi anni, ma cosa, metti il condizionatore a 1650 metri, ma sei fuori, mi ha detto il... l'installatore, dice, ma vedrà che forse fra 10-15 anni lo useremo caldo, anche lì. Farà caldo, cioè lei dice che tra 10-15 anni, ma infatti noi l'abbiamo anche chiamata perché mi ha colpito questo orologio, questa installazione che è stata tolta provvisoria, è stata messa a New York per dire, guardate, c'era un countdown dicendo la Terra ha 7 anni di vita, che messa così sembra un messaggio lievemente allarmistico. Esatto, lievemente allarmistico. No, ma l'allarmismo è giusto, è solo messo in un modo sbagliato, cioè non è, intanto la Terra non ha 7 anni di vita, la Terra ha ancora 5 miliardi di vita, di anni di vita, poi sappiamo che verrà incenerita dal Sole, ma non ci riguarda perché noi siamo molto più giovani come specie, abbiamo 200.000 anni, e io sarei già molto contento di garantire all'umanità altri 200.000 anni di vita, solo che siamo noi che rischiamo, cioè il pericolo, il countdown è per l'uomo, non è per la Terra. Esatto. L'uomo potrebbe soffrire di un clima assolutamente inedito, che stiamo preparando noi, col fatto di aver bruciato da 200 anni petrolio, carbone e gas, stiamo entrando in un clima assolutamente ignoto per la nostra specie, che ci proietterà in un pianeta troppo caldo. Adesso non ce ne rendiamo conto perché sono fenomeni che, pur creandoci qualche fastidio, sono temporanei, sono intermittenti, sono geograficamente limitati. Cioè, oggi ci sono gli incendi in California, 6 mesi fa erano in Australia, poi c'è il tornado, poi c'è l'alluvione e poi tra uno e l'altro uno dice si dimentica. Sì. Ma via via che la temperatura sale, problemi diventeranno continui e pervasivi. Uno tra tutti, l'aumento del livello del mare. Cioè le calotte glaciali fondono col caldo e i mari stanno già salendo ora di 3,5 mm all'anno. Sì. Sì. E le stime dicono che se non facciamo nulla in questi famosi 7-10 anni, non è importante dire l'anno giusto, allora rischiamo di avere un metro di mare in più entro questo secolo, cioè Venezia è sotto, per dirne un problema di sentivo casa ieri anche Musumeci da noi, o l'altro ieri a Radio 24, le Filippine, Manila è una città che sprofonda, credo di 20 centimetri l'anno, o sprofonda... Ma lì c'è un problema doppio, anche un po' come Venezia, un conto è sprofondare, quello è un problema geologico. Sì. Ma un altro problema è invece il mare che aumenta, e quello cioè anche per altre città, New York, Londra... Tokyo, sono tutte città sul mare che rischiano di essere sommerse via via che fondono i ghiacci della Groenlandia e dell'Antartide. Comunque bello questo messaggio, saremo tutti migranti verticali. Io e Leonardo abita già al 6° piano, l'unica verticalità. Benissimo, potrebbe allora, arrivare all'ottavo, bene, potrebbe arrivare all'ottavo. Questo è il mare è sconfitto, il caldo invece non ancora. Il caldo, no, però è questo, cioè in fondo anche questo tutto coronavirus, questa vicenda ha portato, io conosco una persona per esempio che è andata in lockdown a Courmayeur e poi ha detto ma sapete che c'è, ma io sto qua, ha portato i figli lì, ha portato i figli lì, vive lì sono scelte ancora un po' limitate, singolari forse, no Mercalli? L'idea è quella anche di dare un po' una sveglia come progetto politico, cioè, l'Italia ha 35% di territorio montano, se ci aggiungiamo le colline arriviamo al 70 o giù di lì. Questo significa che a un'ora di macchina da ogni grande città italiana hai questo polmone di fresco naturale che può benissimo essere sfruttato da tantissimi di noi, anche voi, per dire, il lavoro che fate voi è un lavoro che si fa, lo sentivo che ne parlavate prima, tranquillamente a distanza, smart working. Non lo dica a Manera, non lo dica a Manera. Si fa in Piazza Udine oppure puoi farlo con Courmayeur. Bisogna capire quanto la montagna resisterebbe se molti di noi si spostassero da quelle parti. È proprio per questo che io dico ci va una progettualità politica. Se lasci al caos, all'emergenza, la soluzione di questi problemi, viene fuori un casino. Cioè, il primo anno che hai 48 gradi a Milano, c'è il fuggi e la montagna diventa un carnaio, o speculazioni, le case non vengono vendute nel modo giusto, cioè bisogna progettare questa migrazione e lo fai per esempio ristrutturando tutto quello che c'è, ci deve essere un forte impegno anche dei comuni in questo, e non costruendo neanche un metro quadro di cemento in più, perché altrimenti ricreiamo la città in montagna e questo non serve. Sì. È bellissimo. Mi stupisce una cosa di Mercalli, che dà questo riscaldamento globale ormai per ineluttabile, cioè anche facendo delle politiche di contenimento questo riscaldamento ormai ci sarà per forza di cose? Sì, purtroppo è ineluttabile almeno in una certa misura, nel senso che lo stesso accordo di Parigi ci dà una forchetta di 2 o 5 gradi. 2 gradi ormai ineluttabili, non possiamo farci niente, è il ritardo che abbiamo preso per non aver fatto assolutamente nulla nei 40 anni prima. 5 gradi è lo spettro dello scenario peggiore, ovvio che mi sono già attrezzato per i 2, poi se va bene applichiamo in fretta l'accordo di Parigi, e non mi sembra dai sintomi che abbiamo, adesso c'è questo Green Deal europeo che dovrebbe darci un po' una sterzata, ma solo per l'Europa, vediamo se rieleggono Trump, anche questo è un dato importante per dare la svolta ambientale o no, allora forse i 2 gradi riusciamo a garantirceli, che sono un po' un limite di sicurezza, cioè un po' di danni ma non troppi, aumenta il mare di 0,5 metro ma non di 1 metro, se invece succede che non facciamo niente in questi 7 anni di quel countdown newyorkese, che poi metti pure, diamogliene anche una decina, significa entrare irreversibilmente nella traiettoria dei 5 gradi in più, e quella invece è una catastrofe, non ci sono dubbi. Su questo devo dire, la nostra Mina Lucchetti dice giustamente l'installazione, io ho tradotto la Terra 7 anni di vita, in realtà diceva a 7 anni, abbiamo 7 anni per evitare che la temperatura si alzi di 1,5 gradi, che poi porterà conseguenzialmente porterà a una a una problematica non tanto sulla Terra ma sull'umanità. Giustamente Luca Mercalli ci fa questa differenza, perché spesso si dice identifichiamo noi come umanità con la Terra, cioè salviamo la Terra, ma la Terra è un sistema che in qualche modo ha una sua vita, si preserva, la Terra farà il suo corso, magari noi trasciniamo con noi nel baratro milioni di altre specie viventi, lo stiamo già facendo, cioè abbiamo innescato anche la 6ª estinzione di massa, ma il fatto che ce ne siano state 5 prima di noi vuol dire che la Terra poi si riprende, ha tanto tempo davanti l'evoluzione per rifare qualcosa di nuovo. Esatto. Spiace però che i dinosauri riprendano il nostro posto, cioè mi sembrava un buon esperimento quello che abbiamo fatto noi. Chi lo sa? Perché abbiamo fatto anche cose buone. Io vorrei togliere le stupidità che abbiamo fatto e mantenere quelle buone. Lei, se conoscesse Manera, sarebbe così convinto che i dinosauri sarebbero Sono sempre questa stima nei miei confronti è sempre apprezzabile, no, ti ringrazio. Grazie Luca Mercalli, ricordo il suo libro, lo trovate proprio da oggi per Einaudi, Salire in montagna, prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale. È questo, saremo verticali, saremo anche in ritardo di qualche minuto per il traffico, rientriamo tra un attimo. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. Dottor Milan, nessuno dice che ci vuole un altro marchingegno da applicare per la lotteria, che costa 130 euro, poveri noi. Io giro il mondo per lavoro e in Cina gli scontrini che ti offrono un premio sono stati una manna dal punto di vista fiscale, e anche loro non sono proprio un fulgido esempio di correttezza nell'evasione fiscale. Poi dicono, ma è scandaloso, il presidente ne non può prendere meno degli altri dirigenti. Ma allora abbassate lo stipendio agli altri dirigenti, non è che aumentate il suo uguale a quegli altri. Allora, caro Leonardo, eccoci ma qua. Ma io resto perplesso che non si possa nominare, ancora Giuseppe Ciambone, chi l'amministratore delegato, cioè basta! Non si può nemmeno dire il nome, vabbè. Avanti. È così. Io dico il nome del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quello si può dire. Si può dire Mattarella. Vai. Allora, capita spesso che noi ci lamentiamo del nostro tipo di vita con pochi rapporti umani e in questo periodo ancora di più causa distanziamento sociale. Vita dove la tecnologia comunque sembra aver preso il sopravvento. Fino a qualche anno fa, quando per esempio avevamo un problema o bisogno di un consiglio, di una risposta chiara, chiedevamo ai nostri genitori, ai nostri nonni. Oggi, se abbiamo bisogno di una risposta chiara, chiediamo ad Alexa, l'assistente vocale di Google, o ad altri assistenti vocali. È vero che anche nella tecnologia cerchiamo comunque una umanizzazione, perché spesso io agli assistenti vocali ho sentito chiedere: mi ami, mi vuoi sposare, vuoi fare sesso con me? Ma è innegabile che ormai ci fidiamo più della tecnologia che dei consigli di un parente. Com'è innegabile che la vita nostra sia migliorata grazie alla tecnologia. Pensate solo al navigatore satellitare. Quando non c'era, se dovevi andare in qualche città, prima dovevi studiare il percorso sulla cartina e poi, una volta arrivato, chiedere indicazioni ai passanti, e non ne trovavi mai uno del posto, perché quando chiedi indicazioni ai passanti sembra che nessuno abiti lì. Quando chiedi indicazioni sembra che le città siano abitate da persone che non abitano lì. Sembra che vengano tutti da fuori, perché così quando tu chiedi indicazioni possono dirti che non sono di lì. Forse lo fanno apposta, si organizzano da fuori con dei pullman per arrivare tutti in quella città quando ci devi andare anche tu. Finché alla fine trovi qualcuno di buon cuore che ti dà qualche indicazione, ma c'è un rischio. Quello di trovare quello che ti dà apposta le indicazioni sbagliate, perché quelli ci sono. Io non so perché, ma ho sempre avuto l'impressione che ci sia qualcuno che gode nel dare le indicazioni sbagliate, è un sadico, ma probabilmente quando tu ti allontani seguendo le sue indicazioni sbagliate, lui gode mentre tu vai dall'altra parte della città e poi pensa: ci ha creduto. Oppure rischia anche di trovare quello che, per non fare brutta figura, ti dà comunque un'indicazione sbagliata, perché non vuol far vedere che non sa, e allora ti dice, ma ti dice sbagliato, e tu finisci comunque dall'altra parte della città. Perciò in generale, quando chiedi indicazione a qualche passante, è sempre buona regola andare dalla parte opposta a quella che ti stanno indicando, che prima o poi ci arrivi. Invece col navigatore questi problemi non ci sono. Tu imposti la destinazione finale e lui ti guida fin lì, bello, facile, senza problemi. Ma fino a un certo punto, perché prima col navigatore devi decidere se vuoi il percorso più breve o il percorso più veloce, che sembra la stessa cosa ma non è la stessa cosa, e allora devi scegliere. Se scegli il percorso più breve, di solito fai la statale, ma quello che risparmi nei pedaggi lo spendi con le multe che prendi sulle statali con gli autovelox. Se invece scegli il percorso più veloce, di solito fai l'autostrada, ma quando esci dall'autostrada c'è sempre un punto in cui le indicazioni dei cartelli sono diverse da quello che dice il navigatore, e allora subentra il dubbio: segui i cartelli della strada o segui il navigatore? E se in macchina c'è qualcuno con te, per esempio tua moglie o la tua fidanzata, ti criticherà per tutto il viaggio, anzi per il resto della vita, a causa della scelta che hai fatto. Comunque, alla fine la tecnologia ci aiuta, e molto. Certo, sarebbe bello che poi, arrivati sul posto grazie al navigatore, trovassimo qualcuno ad aspettarci e da abbracciare, e non solo un robot o un assistente vocale, ma questo è un altro discorso più difficile da risolvere. Per ora mi accontento solo della voce di Alexa, è sufficiente che ogni tanto mi chiami tesoro. Ma com'è che ti chiama? Un giorno lo fai? Me lo fai sentire il tesoro di Alexa? Non ce l'ho io Alexa. Comunque l'assistente vocale di Amazon, non di Google, ci scrive Marco. No, tutto questo per la precisione, Massimo Alfredo Giuseppe Maria, ti ricordi? Tu hai detto che è di Google. Dice che è di Amazon? Sì, no, non è che dice, non è che Marco dice. È così. È così, ma scusa, tu automaticamente dai più credito a un ascoltatore sempre e comunque che a me. Sempre, se bravo, vai... sempre e comunque. Se tu vai a cercare, sì. Su, dove ho trovato anche il nome dell'amministratore delegato, lasciamo stare, dobbiamo chiudere il giornale radio, tra poco ci rispieghi queste cose. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Uno, nessuno, 100 Milan. E allora, signori, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan può iniziare. Sa che tell this del nostro Manera, lui non riesce fino a primavera, ma ogni mattina quando leva il sul si infila la vestaglia, c'è il picchia dentro il pule pule pule pu fa il tacchino qua qua qua qua lo che ta cif ciaf l'imbianchino, e di noi che cosa sarà, zan zan. A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, we will rock you. Devo dire intonato, eh? Non quest'ultimo che canta, non Freddie Mercury, eh? Intonato, voto al testo 10. Voto, oh. Ho visto che temporeggiavi prima di riprendere, pensavo fosse successo qualcosa. No, perché tu sai. Ho visto tu che aspettavi adesso, un po' la musica. Dopo Sfida Luchetti, c'è DJ Luchet con la K, DJ Luchet. Ti rimprovera se no DJ Luchet, se non tieni il tempo sulle canzoni, se non fai ascoltare, se non fai apprezzare. Vedi, subito Manera pensava invece fosse successo qualcosa. No? Sì, pensavo non ti sentissi bene, avessi qualche problema, oppure che potevi lasciare la canzone per 20 minuti, insomma. Non so. Parlaci tu all'inquilino e di noi che cosa che sarà. Ne pensi invece dell'ascoltatore che ti ha dedicato artisticamente parlando un bel 10 e anche una bella voce, mi sembra, no? Sì, non ho niente da dire, mi dispiace che si sia diffusa l'idea di me in questo modo, che non ami lavorare. Io lavoro da quando avevo, per la verità, 17 anni, quindi lavoro da quando avevo 17 anni, quindi il pagliaccio. 36 anni che lavoro, sono 36 anni che lavoro. Cosa fai? Ho iniziato a versare contributi nel 1987, quindi ormai sono prossimo alla pensione. Pagliaccio. Credo che tra poco andrò in pensione. Va bene, ma quando lavori? Ecco appunto. 10:10 ci siamo, cari ascoltatori. C'è Luciana che ci chiama da Modena. Buongiorno, Luciana. Buongiorno e ancora bravissimi. Che bello. Possiamo, come al solito, chiudere la telefonata qui, sì, cara Luciana. Perfetto, già scherzo, finito, punto. Scherzo, vada. Non ho potuto non intervenire proprio. Ho dovuto assolutamente subito. Sentivo che parlavate del probabile lotteria, sì. Con gli scontrini. Sì, lo ha annunciato sì. Conte, non è la prima volta che in Italia sì. Si annuncia questo provvedimento. Ed è per quello che sono anni che io tengo gli scontrini in un bel vaso trasparente, ma tutti, eh. Ma Luciana, credo che non sia retroattiva la questione. No, anche perché a fine anno, ogni anno io li bruciavo nel mio camino. Perché non erano serviti a niente, neanche a tornarli a guardare. Lei li teneva nella speranza che partisse una lotteria ma che qualcuno meno delirante di tutti quelli, perché sono dei deliranti, si svegliasse e dicesse: ma se noi glieli facciamo detrarre, tutti portano a casa gli scontrini. Però ecco, Luciana, le dico, se anche in una finanziaria si stabilisse questo, vale per l'anno successivo. Quindi tenere proprio quelli di quest'anno, se l'anno precedente non è entrata in vigore questa misura. Infatti a fine anno facevo il fuoco. Ecco, è bello, questo è evocativo, Leonardo, questo falò di fine anno con gli scontrini. Sì, dispiace, ma volevo dare appunto anch'io alla signora la notizia che anche quegli scontrini quest'anno non serviranno praticamente no. a a nulla, no, quindi puoi iniziare già a bruciarli, signora. No, invece Luciana, mi piace questa idea, ne ha tenuti quanti? Quanto pesano alla fine? Dunque, è un vaso, vorrei mandarvi la foto, è un vaso molto grande, è trasparente e poi li pigio anche. Ah, li pigio, perché noi giusto. Siamo corretti, ci facciamo fare gli scontrini. Giusto, giusto. Brava, anche Luciana. Se a volte non paghiamo con la carta di credito. Sembra un po', parla un po' come Elenio Mariotti, effettivamente, la nostra sardina, d'altronde è di Modena, e anche il nostro Elenio Mariotti. È molto educata questa scelta del tenerlo scontrino. E c'era anche una punta di polemica, come sì, dire, sì, vedi, abbastanza, che anche... abbastanza. Grazie Luciana, tenga gli scontrini e faccia un bel farò. Lo trovo molto catartico come gesto e quindi va bene. Continui con questa tradizione. Andrea Roma da Susanna, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io invece chiamo per quello che avete detto insieme con Stella. Con Rizzo, Rizzo, Sergio Rizzo. Sì, abbiamo parlato anche di Stella, ma era Sergio Rizzo, il sodale della casa. Il sodale, va bene. Allora, io ho 63 anni e sono molto preoccupata perché... secondo me, io lavoro come consulente del Ministero delle Infrastrutture al MOSE. Le garantisco, è pieno di avvocati, sì. la struttura tecnica non esiste. Allora io mi chiedo, ma come faremo noi a spendere i soldi che verranno dati dall'Europa se siamo pieni di avvocati e non abbiamo ingegneri, geometri, muratori? Guardate che la situazione... No, questo è un problema, questo non è un problema, il problema delle competenze, certo. Delle competenze. Certo. Io ho fatto ingegneria 40 anni fa, senza i computer, con la matita. No, ma guardi, quello che dice lei, Susanna, è talmente vero. Spesso si è detto che già nella sola provincia di Roma credo ci siano più avvocati che in tutta la Francia. Questo è un dato che viene sempre citato anche nel libro di Stella e Rizzo. C'è da dire che abbiamo un alto grado di litigiosità, cara Susanna. Soprattutto lei lavora al MOSE e si immagina anche il grado di litigiosità e possibile cause, e quindi purtroppo abbiamo anche forse più bisogno di avvocati rispetto ad altre nazioni perché ci sono più cause, però certamente sono troppi rispetto forse al necessario. È per questo che noi dopo il traffico ripartiremo anche da un avvocato. No, scherzo. Io per quello non ho terminato giurisprudenza, ecco, l'ho fatto per il bene della nazione. Esatto. Ho detto, in Italia ci sono troppi avvocati, non voglio andare ad aggiungermi alla pletora di avvocati e quindi cambio, faccio secondo un altro lavoro. Secondo voi, quindi... che tipo di avvocato sarebbe stato Leonardo Manera? Questa è una cosa che mi incuriosisce tantissimo. Avvocato Bonetti, buongiorno. Intanto, civilista o penalista? E questa no, no, non dirlo. Beh, non dirlo tu, dopo ce lo svelerai più avanti, però vorrei capire dagli ascoltatori, se mi mandate al 349-238-6666, che tipo di avvocato vi sareste immaginato, per me, penalista o civilista, intanto voglio sapere, e poi secondo voi, non so, penalista che difende i criminali, difende i mafiosi, oppure penalista che difende i furtarelli, penalista che non lo so, difende di che ramo, non so, mi interessa. Allora, mangio un biscotto, molto attirato da questa questione, vado a mangiare ma un biscotto. Subito arriva uno, avvocato del lavoro, subito, giustamente, un matrimonialista, ecco. L'amore finisce sempre comunque, subito c'è un altro ascoltatore. L'avvocato Bonetti, scrive uno, sarebbe un rompicoglioni di dimensioni ciclopiche. Guarda, stanno arrivando tantissimo. Civilista, ringrazio tutti. Civilista e venduto, ci scrive un ascoltatore. Ottimo, oggi è una bella giornata per azzecca me. Azzecca garbugli, ci scrive un altro ascoltatore. Divorzista, avvocato delle cause perse, un altro ascoltatore. L'avvocato del diavolo, vabbè, insomma, come ve lo vedete, intanto il traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Certo che abbiamo un polmone a un'ora di macchina, eh? Un'ora di macchina da ogni grande città, solo che poi l'ora di macchina diventano 2 o 3 ore di coda in macchina e naturalmente i polmoni ringraziano, giusto? Manera, perché non è mai capitato quando chiedi informazione, magari a una persona anziana che tu deduci che sia del posto, lo vedi lì dubbioso, poi parte con il suo sermone, poi chiede al collega, all'amico, esce quello dal bar per dire no, non è vero, non devi andare di là, insomma nasce un dibattito che dura 3 ore e tu sei lì pentito di aver chiesto informazione a una persona sbagliata. Allora lascia andare un po' la musica, oggi infatti, vedo che infatti. Tempi molto lunghi, sempre 10-19 minuti, avvocato Manera, molti dicono farebbe come Neronello, avvocato matrimonialista Neronello con le mogli, vabbè, insomma tu cosa avresti voluto fare, svelaci il mistero, civilista, penalista? Io sarei diventato il parafangaro, come dicono molti. Quelli che si occupa di incidenti automobilistici. Sarei partito con l'idea di fare il penalista, come quasi tutti. Poi sarei diventato civilista, perché forse c'è anche più lavoro. E poi avrei ripiegato solo sugli incidenti stradali. Quindi sarei diventato il classico avvocato parafangaro. Parafangaro. Salutiamo tutti gli avvocati civilisti che si occupano di cause di incidenti stradali. Sono così, loro stessi che chiamati lo dicono, con questo epiteto molto sprezzante da Leonardo Manera. Lo dicono loro stessi. Si autodefiniscono così. Adesso. Sono un parafangaro, in molti dicono. 10-20 minuti ci ha colpito la vicenda che... È vero, è in Thailandia, raccontata ieri dai giornali, di un turista che ha bocciato clamorosamente una struttura ricettiva e rischia con una denuncia per diffamazione il carcere in Thailandia. Ora affrontiamo questo intanto con un uomo a cui mi inginocchio per la qualità della sua arte pasticcera, il maestro Igidio Massari. Buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti voi. Insomma, non ha bisogno di molte presentazioni anche da quando è diventata una star televisiva, ma insomma, maestro pasticcere, se ce n'è uno in Italia e non solo in Italia. Lei in passato divenne anche famoso perché una causa l'ha fatta a due ragazzi che hanno lasciato un commento sprezzante, poi ha vinto la causa, ha dato i soldi in beneficenza. È interessante questo tema, perché sentirsi diffamati da un giudizio su TripAdvisor? Non so perché è nata questa ipocrisia che implementa un danno enorme alla società, perché noi possiamo parlare di tanto, ma poi alla fine dobbiamo andare al succo. Non siamo in grado di far buon uso della libertà, di nessuna libertà. Da quella economica, perché siamo sperperatori professionali. Di quella di iniziativa, perché pecchiamo di coraggio e di riunione. Perché ci lamentiamo della politica, ma siamo soprattutto pigri osservatori da poltrona, di espressione, perché usiamo la libertà come pretesto e ombrello di offesa. E questa qua è la prima cosa che la società ci offre su questo piatto. E in questo contesto anche TripAdvisor è uno strumento svilito, è incompreso e mal sfruttato, e spesso deviato al solo fine di recensire negativamente, nella certezza dell'assenza del confronto verbale. Ovviamente diretto, cioè uno scrive lì e dice tanto chi vuoi che mi venga a dire qualcosa, no? C'è sempre la speranza dell'anonimato, se non della falsità. Questo però non viene compensato a volte da recensioni finte positive che vengono poste dagli stessi proprietari delle strutture? Prima del virus faceva parte la pazzia. Adesso il virus ha incentivato non gli ammalati ai polmoni, ma gli ammalati nel cervello, e quello ce ne sono un sacco, ma c'è sempre stato l'alto e basso. Però punire tanto aspramente chi di questo si è macchiato mi pare eccessivo. Ma lei perché in quel caso ha deciso no, questo limite evidentemente è stato superato, devo fare causa per diffamazione? Cioè quella... Allora vedete, a me avevano detto che la mia crema facesse vomitare. Sì, che è un'espressione brutale per uno che è fa... È brutale e diffamatoria, soprattutto perché la mia crema ha vinto 2 campionati mondiali. Perciò io dico sempre che a chi piace la cacca confonda il profumo con un pessimo odore o viceversa. L'abbiamo definito in tribunale con un modestissimo risarcimento che ho offerto poi in beneficenza. In beneficenza, sì. Era per dire, cari utenti, non è che uno si sveglia e può dire quello che vuole. Ma guarda, infatti, maestro Massari, qua c'è... c'è la nostra Marisa Maraffino, avvocato, buongiorno, collaboratrice del Sole 24 Ore, voce di Radio 24, avvocato, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti e saluto anche il maestro Massari, che tra l'altro seguo su Instagram, con molto piacere. Se vuole un po' di crema, ecco, vuole un po' di crema gratis. Farebbe molto piacere, no. Avvocato Maraffino, come mai si può denunciare per diffamazione, al di là degli articoli che ci può citare, insomma... Anche in Italia la diffamazione è reato, quindi partiamo da questo presupposto. Sono d'accordo col maestro Massari quando diceva che nel nostro paese, ci sorprende anche da avvocati, non si abbia proprio la percezione del bilanciamento delle libertà, cioè la libertà di critica è sancita dalla Costituzione, quindi è un diritto addirittura costituzionalmente tutelato, ma poi ci sono altri diritti inviolabili dell'uomo, come quello a non veder violata la propria reputazione. Però ci sorprende sempre come ci sia l'incapacità anche da parte degli utenti della rete di bilanciare questi due interessi, e quindi di distinguere il diritto di critica, che ripeto è garantito e quindi nessuno lo censura e nessuno va in tribunale per una recensione scritta secondo i crismi del diritto di critica. Si va in tribunale sia in sede penale che civile, e sono due cose diverse, quando si trasmoda, quindi si va oltre, si va nell'ambito dell'inventiva. Poi se volete possiamo fare anche degli esempi, insomma, sì, direttamente. Sì. Certo, no, però è chiaro a tutti che se io dico l'avvocato Marisa Maraffini, non so, è corrotta, questa è una diffamazione chiara, lampante, no, che uno può perseguire. Su TripAdvisor state attenti, perché insomma uno può dire, beh, ma secondo il mio giudizio era uno schifo, sì, questo hotel. Ecco, allora, io posso criticare, cioè dire per esempio questo albergo è piccolo, non ha le strutture, gli accessi per gli invalidi, posso dire sempre anche seguendo il criterio della verità, quindi non posso inventarmi delle recensioni se non fatte. Noi abbiamo avuto dei casi in cui addirittura si trattava di una concorrenza sleale, no? Quindi il vicino di attività, quindi il ristoratore vicino, iniziava a mettere critiche negative a quello che aveva aperto da poco, no? Quindi sì, si può configurare, e come diceva prima il maestro Massari, l'anonimato è un falso alibi, nel senso che l'anonimato in realtà, se si è dei delinquenti, diciamo, non abituali, quindi non si è avvezzi a usare le tecnologie in modo tale da non farsi scoprire, diciamo che insomma facendo una denuncia alla polizia postale si arriva di solito anche a individuare chi si muove con un nickname e che non usi particolari avvisi. Posso soltanto dire l'ultima cosa, sì, ci tengo a dire che a volte sfugge un po' di mano questa cosa delle recensioni. Per esempio abbiamo avuto un caso di recente in cui addirittura abbiamo presentato una denuncia per istigazione a delinquere, perché non solo si diffamava, no, la persona, ma si arrivava a chiedere a tutti gli altri utenti di diffamarlo, e quindi una specie di caccia alle streghe che insomma onestamente bisogna porre un freno, secondo me, a questo tipo di condotte. Massari, è stata la prima e unica occasione in cui c'è stato un giudizio, no, di questo tipo? No, c'è stata un'altra, ma io ritengo che quando si offende il lavoro di un uomo si offende comunque il lavoro di ogni uomo, e che l'uomo che non pensa, che non vive e che vegeta produce solo danni, e questo qua lo vediamo troppo spesso, sia da una parte ovviamente la gente che è ammalata nel cervello c'è pieno il mondo, ma la mancanza del rispetto di chi lavora e che si impegna si è perso nell'infinito. Cioè, mi sembra che stiamo esagerando su tutto. Sì, e stabilire il confine, come sempre, la questione delicata, cioè il confine di dove arrivi un giudizio personale, un giudizio positivo o negativo, e dove invece si sconfini nella diffamazione. Ma insomma, l'avvocato Manisa Maraffino ce l'ha spiegato. Leo. Ma io vorrei chiedere all'avvocato se è una questione di forma o di sostanza, nel senso dipende dal linguaggio usato o dalla sostanza di quello che dice per definire se si tratta di diffamazione oppure no? Da entrambi. La forma è quello che si chiama la continenza espressiva, no? Quindi se vado oltre con espressioni denigratorie, quindi che non si fermano, no? Sul crinale della critica, allora, quindi se definisco qualcuno buffone o, come diceva prima il maestro Massari, vomitevole, eccetera, questo ovviamente siamo oltre la continenza espressiva. Poi c'è anche il requisito della verità oggettiva, cioè se io mi invento che, non so, c'erano degli scarafaggi, degli insetti in un albergo, soltanto per gettare discredito su quella struttura che magari mi sta antipatica per altri motivi, allora lì manca il requisito sostanziale e quindi sì, si può arrivare a configurare la diffamazione anche in questi casi. Mm-hmm. E voglio precisare, insomma, come diceva prima anche il maestro Massari, che io devo dire la verità, quando vengono da me le persone per chiedere tutela per queste cose, capisco ed apprezzo quando si fa questo, perché a volte si tutela anche il lavoro che c'è dietro, no? Quindi si tutelano i dipendenti, perché oggi si chiama addirittura danno reputazionale, no? Quello che si fa a un'azienda quando una recensione è negativa, ed è un problema enorme. Pensate anche ora a tutta la questione legata a Google My Business, per esempio, no? Sì. In cui tutti i professionisti si trovano recensiti, a volte anche loro malgrado. Quindi è un problema enorme quello della reputazione, secondo me, e le piattaforme però non sono immuni. Quindi il consiglio che vorrei dare magari a chi ci ascolta e che è stato purtroppo a volte vittima di questo tipo di attacco, no? È che può rivolgersi anche alla piattaforma, quindi può inviare una diffida, cioè una raccomandata, una lettera a questi signori, quali almeno a livello civile rispondono per un commento denigratorio, quindi devono rimuoverlo, e se non si attivano in sede civile noi possiamo agire anche contro la piattaforma. Allora, io nel ringraziarvi e concludere, Iginio Massari, qual è il dolce che le viene meglio? Con la mano proprio ormai a occhi chiusi riesce a fare... Allora, il dolce che viene meglio non ce n'è. Un professionista deve fare i dolci tutti con la stessa cura e con la stessa attenzione. Poi de gustibus dipende anche dalla zona che una persona proviene. Se viene dal meridione è molto semplice, è molto facile pensare che le piacerà di più la ricotta. Se viene nel nord d'Italia è più facile trovare gente che le piace più il cioccolato. Va bene, però ci sarà un dolce che si è stancato di fare, che dirà: questo l'ho fatto mille volte, non ne posso più, se posso evito. Volevo fare il dolce non ne posso più, ma era contro la parte commerciale. Non male, il dolce lo chiamiamo così, non ne posso più, che potrebbe essere anche una cosa positiva, cioè talmente buono che non ne posso più, ecco perché potrebbe, è un'idea, la sviluppi, maestro, le abbiamo dato, si è dato e noi le sponsorizziamo questa idea, il dolce non ne posso più. Grazie davvero al maestro Iginio Massari e grazie all'avvocato Marisa Marraffino, due personaggi eccezionali, e poi si presenta qua Mauro Meazza. Uno alza poi lo sguardo e invece di fronte, caro Leonardo Manera, c'è Mauro Meazza. Cioè, quei contrasti che ti stupiscono. Cos'è che c'è? Sto sbattendo il tappeto fuori dal balcone, quindi non sto seguendo molto, scusa. Sentivo dei fuochi d'artificio. Com'è? Fammi sentire. Ecco. Cioè, tra l'altro, come i disgraziati, quelli che poi al quinto piano, al quarto piano buttano le briciole, la polvere. Sì, ma credo che quelli che abitano sotto di me in questo momento non ci siano, quindi posso sbattere tranquillamente. Cioè, allora, cari coinquilini di Manera, vi ha appena insozzato. No, coinquilini, condomini, scusa. Vi ha insozzato in questo momento i balconi sotto al vostro. Testimone in diretta su Radio 24. Vengo a testimoniare per una causa civile. Tranquilli, andiamo a sentire la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. 1, nessuno, 100 Milan. L'avvocato Bonetti sarebbe stato uno di quegli avvocati che insegue le ambulanze per poter fare causa a tutti. Sicuramente Manera, avvocato per le cause matrimoniali, lì dove c'è tanta amarezza. Manera, avvocato delle cause perse. Manera, hai detto che lavori da 36 anni. Hai iniziato a pagare i contributi dal 1987. Hai lavorato 3 anni a nero. Vergogna, ti manderò il ragionier Crosta. Devo dire che altro che la stima mia nei tuoi confronti, cioè capisci tu i tuoi ascoltatori? È così, servo come pungible per sfogare così, i malesseri degli ascoltatori, non importa, guarda, non mi faccio carico anche di questo ruolo, non ha importanza. Sono abituato a tutto ormai nella vita, non c'è più niente che mi possa tangere. Ma non è vero, vedi, quindi l'avvocato Maraffino, per esempio, che ringrazio ancora, mi ha scritto poi in pubblicità un messaggio per completare il discorso e ha detto: se volete Manera lo prendo io a fare praticantato che ci rallegra i giudici. C'è un mio collega, anzi, sarebbe da chiamare, sì, allora ti faccio questa proposta in diretta. Chi? Ieri abbiamo avuto Giorgio Zanetti, sì, comico che grande, si è reinventato. Adesso invece all'età di 60 anni, sì, un mio collega prestigiatore si è laureato in medicina e ha iniziato a fare il medico. Stupendo, quindi, ma dobbiamo chiamarlo subito, domani. È l'amico Gianmauro Anchisi, in arte il mago Magicus, che non ha mai smesso di studiare medicina e adesso ha 60 anni, quando altri sognano la pensione, lui invece, anche per rendersi utile in questo momento in cui i medici subito, sono necessari, subito, domani, ha iniziato domani, a fare il medico. Domani, Gianmauro Anchisi, a 60 anni, medico, da quant'è che in pratica? In arte mago Magicus. Da quant'è che pratica? 2 mesi. 3 mesi. Ha iniziato da poco, si è laureato un paio di mesi fa. Sì. E quindi vabbè, sarebbe un sì. Sì, ci conosciamo da lontano 1987-88 quando lavoravamo insieme nelle discoteche, però non ha mai smesso di dare esami. Giochi di magia di Magicus, non c'è una grande fantasia, Magicus. Giochi di magia. Ma questo, lascialo giudicare a chi vede la sua magia, non così porti così sul piedistallo, anche giudice dei giochi di prestigio di cui probabilmente non hai nessuna nozione. Ma zero, assolutamente. Anzi, sono affascinatissimo io dai giochi di prestigio. Mi piace il Festival della Magia quando lo fanno al Teatro Manzoni, vado. Mi piace tantissimo, ho portato i figli l'anno scorso. Sono affascinato. David Copperfield, un grande. Ecco, e dopo c'è Magicus. Cioè, ti invito. E Fantasios. Perché tutti con la Magicus? Perché tutti con la S? Magicus, Fantasios. Non lo so, perché gli piacerà il couscous, non lo so, devi chiederlo a loro. Io non Vabbè, non no, domani segniamo. Gianmauro Anchisi, lo voglio assolutamente per capire come mai ha deciso di. Allora, ci sono tanti messaggi anche per il maestro Eugenio Massari. Qualcuno ci chiede anche se sarebbe stato bello un confronto tra lui e il nostro Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli. Allora, noto con dispiacere che il maestro Massari faticava a dire TripAdvisor. Riesco a dirlo molto bene. Lei ha delle recensioni, Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli? Ma guardi, può darsi che le abbia, può darsi, ma io non le guardo nemmeno perché sono una cosa troppo di basso livello per la mia cucina emozionale. Non mi metto certo a guardare le recensioni di qualche volgare babbuino che voleva venire da me. Ed è come si permette? Questo è diffamatorio. Babbuino, uno che viene lì a mangiare da lei, lei dà del babbuino. Vabbè, ragazzi, Marco da Livorno, buongiorno. Complimenti. Prego. Per la trasmissione. Vada Marco, grazie. Oggi è molto goliardica. È così. Niente, io porto insomma diciamo una testimonianza di quello che è successo a una mia carissima amica durante un matrimonio che andò malissimo. Vabbè, non sto a elencare quello che è successo. Andò malissimo il matrimonio, nel senso che si sono separati, o andò malissimo la cerimonia? No, no, sono ancora insieme. E quindi, però, purtroppo la festa si è rivelata, diciamo, un completo disastro dell'organizzatore e ma del tipo, stesso cioè, ristorante. Per farci capire, cioè, si è mangiato male, banalmente? Ma da male sì e no, nel senso che tutta l'organizzazione era proprio messa lì, a parte che faceva caldissimo, c'era una giornata di sole pazzesca, noi eravamo sotto degli ombrelloni, insomma, non sto insomma a elencare tutto quello che è successo, vabbè, fatto sta che poi questa persona si lamentò su TripAdvisor e ne uscì praticamente una denuncia. E quindi cioè fu denunciata per diffamazione dal ristorante, esatto, cosa ha scritto? Cioè, ha scritto, perché un conto abbiamo capito che è anche la forma, cioè un conto è la sostanza, ci deve essere davvero una sostanza di lamentela, ma qui mi pare di capire che lei dice è stato un disastro, però se la forma è del tipo sono una banda di farabutti è una cosa, se uno dice la disorganizzazione, cioè era tutto disorganizzato, è stata un'altra. Assolutamente, io adesso la recensione non l'ho vista, però non erano state usate, diciamo, parole offensive nei confronti del ristoratore. E quindi io dico, allora, esiste un'app per poterci, diciamo, lamentare o gioire di un servizio, perché dobbiamo rischiare anche di scrivere qualcosa che poi si ritorce contro? Perché poi effettivamente c'era tanta gente, c'erano tantissimi testimoni. Ma l'ha vinta o l'ha persa questa causa? O ancora questo? Non si sa, però insomma, oltre il danno l'ha persa. Sì, sì, dice, ma... sì, chiaro, Marco dice, da utente a sto punto cosa faccio? Se c'è uno strumento per scrivere delle cose, le posso scrivere? Esatto. Dipende sempre che cosa si scrive. Dipende sempre qualcosa. Io infatti parlo per me personalmente, una volta recensì malissimo una pizzeria, ma perché effettivamente sia il servizio che il prodotto era veramente scadente, e questo utente praticamente mi rispose a parole, ma proprio a minacce, dicendomi tu come ti permetti, non ci sei mai venuto, ecco. Io ho usato parole abbastanza velate, però nella mia controparte il ristoratore, il pizzaiolo in questione, mi rispose su TripAdvisor minacciandomi e io non è che ho preso un avvocato, mi sono difeso, ho lasciato perdere. Ecco, quindi. Che tipo di minaccia era, se non sono indiscreto? Che cosa era scritto? Non ci venire più nella mia pizzeria, guai a te, ho capito chi eri. Ah, vabbè, classico. Vabbè, sì, ma tanto sì. Dice, se mi fa schifo, è il primo da utente a non andare più. Va bene, grazie davvero Marco da Livorno. Oh, guarda, Leonardo, non abbiamo parlato di quella, della vicenda del Genoa Calcio, di tutti i positivi, il rischio di, non dico chiudere, il campionato, però insomma sai cosa ha scritto il professor Bassetti, che è un virologo e tra l'altro è del San Martino di Genova? Ha detto: quello che sta accadendo al Genoa potrebbe rappresentare la Waterloo dei tamponi, nel senso che dopo poche ore dall'esito di tamponi negativi per tutta la squadra si è assistito a numerose positività. Quindi i tamponi possono dare da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti e dall'altra produrre un esercito di positivi asintomatici. Cioè praticamente, Bassetti dice che manco del tampone ci dobbiamo... Cioè anche il tampone non dà un'affidabilità. Ma ragazzi, ma che dobbiamo affidarci? A San Gennaro, a Sant'Antonio? Il discorso è che magari uno prima di essere... positivo era negativo, è un po' come la lapide del generale Lapalisse, no? Pochi minuti prima di morire era vivo. Oppure lui dice bisogna rimettere al centro la clinica, cioè i sintomi, i segni, far capire da parte di un considerare medico. Considerare chi ha dei sintomi, chi è malato, e non dire ci sono tot positivi, allora curare i malati. Vabbè, caro Manera. E basta. Eccolo qua, ti sei messo in un grande guaio, andiamo al traffico. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta 1, Nessuno, 100 Milan. Comunque insomma ci casca sempre, io faccio questi tranelli a Manera e lui tac ci casca e poi insomma subisce una serie di insulti su Facebook per il suo negazionismo sospinto. Sto scherzando, meno male che è venuto a trovarci il clown Neronello per chiudere questa puntata, eh? Un saluto a tutti i bambini, il clown Neronello, buongiorno cari amici di Radio 24. Allora, perché sono presente in questa radio? Perché lei sa che prima ero un imprenditore, quindi questa è la radio adatta a me. Avevo un imprenditore nel settore delle pompe funebri. È fallito. Facevo anche fallito. Delle belle bare personalizzate. Ad esempio, una volta è mancato un signore che si chiamava Italo. Per farlo arrivare fino all'altare abbiamo costruito un piccolo binario ad alta velocità. Ma insomma... Non sempre però no. I parenti gradivano queste nostre simpatiche trovate e allora ho dovuto cessare la mia attività e reinventarmi come clown, il clown Neronello, l'amico dei bambini pronto ad intrattenere in modo simpatico tutti i bimbi. Allora arrivo nelle case private già vestito da clown, non da babbuino, con il mio naso rosso, la parrucca, il mio vestitone dove tengo tutti gli oggetti necessari per i bimbi, giochi di magia, qualche palloncino e qualche scatola di sedativi per tenere a bada i più scalmanati. E appena giunto cerco subito di divertire quei mocciosi, quei bambocci, con una buona battuta. Per esempio, bambini, sapete perché oggi sono andato a fare colazione sul terrazzo? Per mangiare i tegolini. Purtroppo i bimbi non sempre si divertono con queste battute. Il festeggiato stava cercando di scatenare contro di me il suo cane, un mastino napoletano alto 1,70 m al garrese. Ma io, consapevole dei rischi che corro, porto sempre con me qualche polpetta avvelenata per cani e sono riuscito ad ammansire il bestione. Prima che si verificasse l'irreparabile per colpa di quei mocciosi cani figli del demonio, bambocci. Poi ho offerto a tutti un buon bicchiere di succo di frutta contenente una intera bottiglietta di calmante sedativo e quindi con i bimbi sedati e il cane stordito ho finalmente potuto raccontare la favola del clown Neronello, l'amico dei bambini. C'era una volta in un qualsiasi paese, fate voi, un re che aveva una sola figlia, tra l'altro in età da matrimonio. Il re aveva provato a convincerla a sposare il principe di Spovezia, di Rintrullanza o di Buccarola, ma lei non ne voleva sapere perché era innamorata di Bovisio, un giovanotto di bell'aspetto che però era più povero di un blogger che non può usare internet. Eppure la principessa, che di nome faceva Gargiola, voleva lo stesso sposarsi con Bovisio, non perché lui fosse molto intelligente, ma perché aveva un mascellone come quello di Ridge Forester e dei bicipiti che in confronto a Yuri Keiki sembra uno dalle braccia molli. E anche Bovisio era innamorato di Gargiola. In più Bovisio piaceva a Gargiola perché Bovisio era un semplicione che capivi subito quello che voleva. Non era uno di quegli uomini complessi che vanno dallo psicologo e non piacciono alle donne perché poi hanno più problemi di loro. Ma il padre di Gargiola, il re, non ne voleva sapere di lui. Allora chiese consiglio al gran ciambellano di corte Ortodonzio, così chiamato a causa della sua dentatura complessa e Ortodonzio architettò un piano. Ortodonzio andò da Bovisio e gli disse: «Caro Bovisio, ho saputo un segreto. Alla tesoreria centrale del regno, questa settimana, c'è lo sciopero degli impiegati. Tu potrai andare là indisturbato e prendere tutto il denaro che vuoi. Così poi potrai sposare Gargiola». Bovisio, che era un vero credulone, diede ascolto a Ortodonzio, ma giunto alla tesoreria, appena arraffate le prime monete, arrivarono le guardie del re che lo arrestarono immediatamente. Bovisio era caduto nella trappola di Ortodonzio. A quel punto Gargiola, la principessa, delusa per il comportamento di Bovisio, esclamò: «Basta, ora sposerò il primo che passa». Ortodonzio, guarda caso, si fece trovare proprio davanti alla sua porta e disse: «Salve, sono il primo che passa». Così convolò a giuste nozze con Gargiola, dopo aver incassato anche un buon premio dal re in monete d'oro. Bimbi, maledetti cani, figli del demonio. Ma La morale della favola, bambocci, smidollati. Se credete nel vero amore, resterete delusi e andrete in prigione. Se invece architettate di nascosto dei piani criminali, diventerete ricchi e potrete anche avere l'amore di una bella figliuola che vi sposerà. Questa è la morale e arrivederci alle prossime favole del clown Neronello. l'amico dei bambini. I bambini che non ama tantissimo Clown Ronello, però, perché... Ma io sono, come dire, comprendo la situazione, li conosco e quindi li definisco per quello che sono, dei figli del demonio che fanno di tutto per danneggiarmi, dei bambocci viziati, smidollati, che andrebbero ripresi in ben altro modo rispetto a come avviene quotidianamente. Le danno da lavorare, le danno da mangiare. Mi danno da lavorare, ma tornerò prima o poi alla mia vecchia occupazione, oppure aprirò una gelateria, farò dei dolci come il maestro Massari. Va bene, va bene. Clown, la ringraziamo. Neronello, con lei chiudiamo la puntata di oggi e ci ritroviamo domani alle 9. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.